Prima edizione. Ed eccoci allora all'avvio di prima edizione, ancora buona giornata da Anna Migliorati. Parliamo di TV per cominciare stamattina, parliamo di Rai. Due temi tengono accesa la discussione in queste ore. Il primo è che oggi dovrebbe sciogliersi in un'attesissima conferenza stampa il nodo dell'accordo tra Celentano e il Festival di Sanremo, con il cachet dell'artista che fa davvero discutere, perché si parla di 300.000 euro a puntata, e oggi vedremo dunque che succederà in Rai. L'altra questione è quella del TG1, perché il direttore generale della TV pubblica, lei, porterà oggi alla CDA la nomina di Maccari a direttore per un anno del TG1. Lei dice di aver deciso in autonomia, contrari però Garimberti e Zavoli, e quindi vedremo un po' che succederà. Però intanto a Maccari uno scherzo l'abbiamo fatto noi di Radio 24. Ieri sera la Zanzara è caduto nella trappola del finto Bossi di David Parenzo. Pronto? Come va, direttore? Volevo farle i complimenti per la nomina. Vabbè, speriamo che domani vada tutto bene, ma penso di sì. A noi della Lega va bene, perché lei è una persona di garanzia. Lei è sempre una persona squisita, io me la ricorderò sempre. Volevo solo dire un po' di riguardo. Sappia di poter contare su un amico, sappia sempre questo. No, ma un po' di riguardo per il nord, per il nord, è vero, senz'altro, va bene. Portare la Rai al mare anche con Renzo, veniamo magari a salutare la Roma. Va benissimo, grazie. Buon lavoro, direttore. Prima edizione. Eccoci qua con i quotidiani in edicola che guardano questa mattina quasi tutti all'Europa, a Bruxelles, dove è arrivata, seppur non per tutti e 27, l'attesa intesa. Il gioco di parole è dovuto sul nuovo patto dell'Unione Europea, il cosiddetto Fiscal Compact, le regole più severe per quanto riguarda i conti e i bilanci dello Stato, degli Stati europei. Il Corriere della Sera titola così questa mattina: intesa 25 sul nuovo patto dell'Unione Europea, Monti soddisfatto, ottenuto quanto auspicavamo, Bruxelles, regole più severe sui conti, non firmano Gran Bretagna e Repubblica Ceca. Il Messaggero: Europa sì al patto di bilancio. La Stampa: Europa sì al patto sui bilanci, che è la stessa cosa, accordo europeo sui vincoli di bilancio per il Sole 24 Ore. Scelte quasi tutte unanime, e allora noi cominciamo da qui, perché vogliamo farvi sentire un passaggio prima del seguito della lettura almeno delle prime pagine dei quotidiani, di quella che è stata la conferenza stampa di Mario Monti ieri sera. Eccolo da Bruxelles. Eccolo pronto, vediamo dalla regia queste le parole di Monti a Bruxelles. Questo trattato ha trovato l'accordo di 25 Stati membri oggi e sarà firmato in marzo. 25 Stati membri sono i 27 meno il Regno Unito, come si sapeva, e anche la Repubblica Ceca, che ha problemi vari in ordine alla sua possibilità di aderire ad un trattato come questo. E si è anche oggi aperta una pagina di grande importanza per quanto riguarda l'orientamento delle politiche dell'Unione Europea alla crescita e alla occupazione. Da parte italiana siamo molto soddisfatti delle conclusioni raggiunte sia su un fronte sia sull'altro. È stato un caso che mi permetto di definire veramente molto buono e di successo. Per esempio, ci sono stati riconoscimenti oggi da parte del Presidente Barroso, diversi riconoscimenti all'Italia. L'altro punto al quale il dibattito pubblico ha dedicato molta attenzione negli ultimi giorni è stato quello dell'eventuale ulteriore aggravamento, appesantimento rispetto a quanto definito nel Consiglio europeo dell'8-9 dicembre per quanto riguarda l'applicazione del criterio del debito in rapporto al PIL. si è molto discusso. La conclusione è sulla linea che il Parlamento e il governo italiano auspicavano, e cioè nel pieno riconoscimento di tutti gli impegni che l'Italia, come gli altri Stati membri, hanno sottoscritto con i trattati, col patto di stabilità e da ultimo col six pack, non ci sono ulteriori appesantimenti o aggravi. Una parola, è importante a nostro giudizio che ci sia stato l'accordo politico e che ci sia presto la firma. Questo dovrebbe dare al mercato la tranquillità su un acquisito e definitivo quadro istituzionale, dovrebbe dare ai governi e alle istituzioni, comprese la Banca Centrale, la tranquillità che ormai l'Europa siede su una roccia di forte e costituzionalizzata nei singoli paesi disciplina di bilancio, e quindi non si deve più, questa è la mia lettura delle cose, avere nella gestione quotidiana degli strumenti politici la preoccupazione di possibili messaggi nel senso della indisciplina. La disciplina ormai è così. La disciplina è così, è deciso. Queste le parole le avete sentite direttamente da Mario Monti, di quel che si è deciso a Bruxelles. Staremo a vedere oggi come reagiranno naturalmente i mercati. Dicevamo, questa è l'apertura di quasi tutti i quotidiani. Patto per rilanciare la crescita, spiega il Sole 24 Ore. Ovviamente poi dappertutto trovate approfondimenti e commenti. Ne parleremo più avanti anche noi. L'elefante in cristalleria, scrive Adriana Cerretelli questa mattina sul Sole 24 Ore. Tra poco sarà nostra ospite a Prima Edizione, lo sentiremo direttamente da lei. Altro tema in grande evidenza sulle pagine dei quotidiani: i deputati rinunciano a 700 euro, il sì della Camera alla riduzione degli aumenti di stipendio, leggiamo dal taglio centrale del Sole 24 Ore. Sole 24 Ore che però, come altri quotidiani, è abbastanza scettico. Tagli di aumenti, non di tagli, è un'operazione trasparenza ancora poco trasparente, scrive oggi il Sole 24 Ore. Dov'è il risparmio? Perché gli importi tagliati all'indennità dei parlamentari dovranno confluire in un fondo a parte. Qualche scetticismo oggi sui giornali c'è, ma questa comunque è la decisione. Corriere della Sera, anche qui la stessa notizia, centro pagina: ridotti di 1.300 euro lordi gli stipendi dei deputati, tetto ai manager pubblici. E anche qui Sergio Rizzo scrive: un passo timido aspettando tagli veri. Vi dicevo, lo scetticismo è palpabile. Prima di passare però ad altre curiosità, l'apertura della Repubblica, che è diversa da quella di tutti gli altri quotidiani che dicevamo puntano soprattutto a Bruxelles. Evasione, il piano di primavera, ecco questo è il titolo di apertura della Repubblica. Parla il direttore dell'Agenzia delle Entrate Befera, che annuncia controlli a tappeto sui conti bancari e denunce dei redditi. Fuga di capitali in Svizzera, così la Repubblica, che ci ricorda anche che a Milano con il blitz c'è stato il più 44% di scontrini tra sabato e domenica. Ne parleremo tra l'altro ancora più avanti a 24 mattino con Alessandro Milan. Qualche curiosità allora, dicevamo, cominciamo dal freddo. È la Stampa di Torino che dedica, anche così come il Corriere della Sera, la fotonotizia in prima pagina: prima un'altra nevicata, poi venti siberiani, così l'Italia si prepara a sfidare il ghiaccio, la settimana più fredda degli ultimi 27 anni. Stessa fotonotizia anche per il Corriere della Sera, dalla quale vi segnalo anche un'altra curiosità: i finti scogli di Napoli, scrive Gian Antonio Stella, lavori per l'America's Cup di vela. E se avesse ragione Ennio Flaiano, se venisse confermato per l'ennesima volta che da noi niente è più definitivo del provvisorio, il dubbio che si pone a Napoli alla trafelata costruzione per l'America's Cup di due barriere di 170 metri, il carico di almeno 3.200 camion in faccia a via Caracciolo. Piano B estralusso dopo il fallimento del milionesimo piano per Bagnoli. E questa la domanda a Napoli. Altra storia invece da Il Messaggero a fondo pagina: Mondonico torna in Serie A dopo il tumore. Ci ricorda Il Messaggero del ritorno di Emiliano Mondonico alla guida del Novara, ultimo in classifica in Serie A. Il tecnico cremonese a 65 anni tra un mese ritrova la panchina a un anno dall'operazione per sconfiggere un tumore, e questo di sicuro vuole essere un messaggio positivo. Ancora il Corriere della Sera, ancora in prima pagina: i paradossi, Antonio Polito, perché proteggiamo troppo i nostri figli. E qui è la bufera scatenata, ve l'abbiamo anche fatta sentire a prima edizione, dall'infelice quantomeno battuta sui ventottenni senza laurea, un po' come i bamboccioni. Il termine sfigato per i ventottenni senza laurea ha scatenato il dibattito. Però, scrive Antonio Polito, a 28 anni avrebbero quantomeno diritto a un posto di lavoro non solo stabile, comparabile alle aspirazioni, ma anche inamovibile, sorvegliato da un giudice ex articolo 18. E qui la bufera davvero aperta. Solo qualche piccola segnalazione, come sempre, poi vi lascio ad Alessandro Milan per approfondire meglio i quotidiani di oggi. E allora noi invece facciamo un balzo negli Stati Uniti, dove è ormai piena campagna elettorale. La prossima notte, ve lo racconteremo domani mattina, ci saranno ancora le primarie per i repubblicani in Florida e vedremo che succederà sul fronte repubblicano. Intanto in piena campagna elettorale però anche il presidente americano Obama. Hello everyone and welcome to the first ever presidential Google Plus Hangout. E allora eccolo, su Google ha lanciato l'inquilino della Casa Bianca la sua campagna elettorale. Questa notte il popolo di YouTube ha intervistato Barack Obama. L'iniziativa è andata in onda sul canale online della Casa Bianca e trasmessa via streaming appunto anche su Google, un'intervista virtuale in cui il presidente ha risposto ai video giudicati i migliori dallo staff della Casa Bianca che sono arrivati dai suoi sostenitori, 130.000 domande, e alcuni hanno anche parlato in diretta col presidente. Eccoli, sentite. Questa è una mamma preoccupata per il futuro della scuola e del sistema educativo americano. Qualche scherzo. Poi un veterano da Boston si è lamentato per non avere lavoro. Una donna gli ha chiesto del 20° anniversario di matrimonio tra lui e la First Lady Michelle. Insomma, campagna elettorale su internet in pieno in piena per il presidente Barack Obama. Questa notte ci saranno invece, la prossima notte, le primarie per i repubblicani in Florida. Ve lo racconteremo domani mattina. Prima edizione con le inchieste di Radio 24. Italia in controluce. È il mattino del 31 di gennaio della prima edizione di Italia in controluce. Vi parla Daniele Biacchessi. Oggi parliamo degli orti in città, una pratica diffusa che va raccontata e secondo noi difesa. Partiamo dalla situazione di Roma con Cristina Carpinelli. Sono Luca Deusebio, faccio parte di Zappata Romana, che in qualche modo è una mappa online che a Roma censisce circa 90 orti e giardini diffusi per la città, che sono aree che un tempo abbandonate sono state prese dai cittadini che si sono rimboccati le maniche e l'hanno restituito alla collettività come uno spazio pubblico, per cui a volte ci fanno un giardino, a volte sono degli orti, a volte sono invece degli spazi per il gioco, per i bambini. È un po' i cittadini che in qualche modo suppliscono a una carenza di manutenzione che c'è negli spazi pubblici della città di Roma. Quella di Zappata Romana, associazione di cui fa parte Luca Deusebio, che avete appena sentito, è una storia ormai diffusa in tutto il mondo. Stiamo parlando di aree verdi condivise. Ce ne sono con diverso utilizzo a New York, Londra, Parigi. In tutto il mondo si fa, è una cosa semplice. In Francia ci sono i Jardin Partagé, il comune di Parigi mette a disposizione le risorse. In America ci sono i Community Garden e all'Associazione Nazionale ci va anche Michelle Obama, partecipa a questi incontri. Ma in Italia, al nord, ci sono degli esempi, ma a Roma abbiamo scoperto che ci stavano 40 case di cittadini che, senza appunto tanto clamore, avevano messo su queste diverse realtà. Allora, da queste informazioni abbiamo deciso di mettere online a disposizione di tutti, e questo ha fatto sì che questi cittadini, che in molti casi non si conoscevano l'un con l'altro, hanno capito che queste questo fenomeno, questa loro attività non era così isolata, ma era condivisa da tanti altri cittadini, e si sono fatti degli incontri, siamo stati contattati e via via si è avviata una rete di queste realtà. All'inizio erano solo 40, questo è avvenuto nel novembre 2010 e adesso siamo arrivati a censirne 90 di queste realtà. Si tratta di spazi verdi, per lo più pubblici, abbandonati e senza manutenzione. Grazie alle iniziative degli abitanti, queste aree si trasformano con il tempo in orti, piccoli giardini, aree gioco. L'area gioco, ad esempio, non è più però il solito parchetto con lo scivolo e l'altalena, ma un posto dove arregnare la fantasia, come ci spiega ancora Luca De Eusebio di Zappata Romana. Ci sono diversi casi, nel senso che poi in alcuni casi che abbiamo trovato, e poi sono i cittadini che prendono a cura e gestiscono un'area verde che magari viene riqualificata attraverso i fondi poi delle varie amministrazioni, e però loro poi si prendono cura della manutenzione. In altri casi invece abbiamo trovato situazioni in cui queste associazioni hanno inventato dei nuovi modi di giocare dei bambini senza necessariamente dover fare riferimento a quei prodotti che sono poi tutti uguali nella città di Roma, c'è sempre lo stesso scivolo, c'è sempre la stessa altalena, e allora forse il bambino comunque si diverte anche con delle cose che sono molto semplici e banali, come delle piccole cunette di ghiaia o di terra, dei fili appesi, insomma i modi con cui poi i bambini si rapportano al gioco è molto vario, insomma lo spazio della fantasia non è che deve essere per forza limitato a quelle tipologie di giochi che appunto sono sempre uguali. L'albero, per fare l'albero ci vuole il seme. Era Italia in controluce, il reportage di Cristina Carpinelli sugli otti in città. Torniamo oggi 13:30 Radio 24. Daniele Biacchessi, ancora una buona giornata anche da Anna Migliorati. Le 6:37 minuti, siamo alla seconda parte di Prima Edizione. Prima di salutare il nostro ospite di questa mattina, vi do un aggiornamento appena battuto dalle agenzie, perché non ci sono solo i blitz contro l'evasione fiscale, sembra davvero tempo di bilanci e di conti su questo fronte, e un comunicato arrivato anche questa mattina dalle Fiamme Gialle che ci racconta di evasioni fiscali sui redditi per 2 miliardi di euro scoperte nel 2011 in Piemonte. Circa un quarto, fanno sapere la Guardia di Finanza, 453 milioni sono stati nascosti da evasori totali, soprattutto micro aziende che hanno anche evaso IVA per 73 milioni di euro, sempre nel 2011. In Piemonte le Fiamme Gialle hanno controllato 8.100 aziende, 43.500 interventi per la verifica di scontrini, ricevute, documenti di merci viaggianti. Ebbene, i dati non sono così diversi rispetto ai blitz di questi giorni. Sono state scoperte irregolarità nel 31% dei casi, 3 volte su 10 irregolarità in Piemonte, così questa mattina fa sapere le Fiamme Gialle. E detto questo, però, con Prima Edizione come sempre salutiamo un ospite. Abbiamo saputo che ci vorranno dagli 8 ai 10 mesi per rimuovere il relitto della Costa Concordia dal giglio, un anno difficile che potrebbe mettere in difficoltà gli operatori turistici i commercianti del giglio. Allora, ieri sera c'è stata sull'isola un incontro pubblico per discutere la formazione di un comitato cittadino a tutela degli interessi della popolazione gigliese. Noi chiediamo come è andato ad uno dei rappresentanti di questo neo comitato cittadino, Alvaro Andolfi, buongiorno. Sì, buongiorno dall'Isola del Giglio, buongiorno. Com'è questa mattina la situazione all'Isola del Giglio? Cominciamo, come vi siete svegliati questa mattina? Ci siamo svegliati abbastanza bene, sembra che il tempo sia in netto miglioramento, almeno secondo le previsioni, e penso che stamattina appunto riprenderanno le operazioni con il pontone affiancato alla nave per il recupero di questo gasolio, che è la cosa che ci preoccupa più di tutti, perché a questo punto, dopo tutti i discorsi che sono stati fatti, a questo punto mi sembra che sia giunta l'ora di cominciare a lavorare per cercare appunto di recuperare questo gasolio, che è la cosa più importante per noi per evitare degli sversamenti a mare che comprometterebbe tutta la nostra stagione turistica, e in seconda battuta cominciare anche a pensare di come togliere questo relitto. Si è detto che avete dimostrato una grandissima solidarietà quando i naufraghi della Concordia sono arrivati sulla vostra isola. Adesso cosa chiedete voi? Sì, volevo spendere due parole su questo fatto qui. Siamo andati alla ribalta di tutto il mondo appunto per questa nostra solidarietà, ma volevo appunto evidenziare il fatto che noi come isolani questa solidarietà ce l'abbiamo dentro di noi, nel senso che essendo abitanti di un'isola, essendo una piccola comunità, ci conosciamo tutti quanti. E quando abbiamo visto questa enorme massa di gente che praticamente come naufraghi arrivavano qui all'isola del Giglio, ci siamo subito mobilitati e abbiamo fatto quello che penso tutti avrebbero fatto. Forse noi un tantino di più, perché appunto eravamo tutti quanti uniti e questa solidarietà appunto è intrinseca. È una piccola comunità. Eravate in tanti ieri sera al comitato, la prima riunione del comitato? Sì, eravamo veramente tanti, nemmeno io avrei pensato di fare, diciamo, fra virgolette, un successo di questo genere. Diciamo subito che questo comitato nasce spontaneo, cioè non c'è nessuna velleità politica e tantomeno diciamo propaganda da parte di nessuno. Sono semplici cittadini che si sono ritrovati insieme soprattutto perché vogliono essere informati. Ecco, dopo tutte le varie conferenze stampa che vengono fatte quasi tutti i giorni dal prefetto Gavielli, di cui stimiamo la professionalità e le doti appunto per impegnarsi in questo recupero, anche noi come cittadini gigliesi vogliamo essere informati. Su quello che succede. Avete più paura per i tesori naturalistici della vostra isola o per la vostra stagione turistica? Ma tutte e due, diciamo così. Questo è un colpo fra capo e collo che ci è capitato e ce lo ricorderemo per tutta la vita. A questo punto però quello che è importante è stato ribadito anche nella riunione di ieri sera da parte di tutti quanti presenti, dove ognuno ha potuto dire la sua, si è potuto confrontare anche con l'amministrazione comunale che era presente, a cui noi vogliamo essere di ausilio in questa battaglia, chiamiamola così fra virgolette, è appunto il fatto che questo relitto comprometterebbe secondo noi tutta una serie di attività a cui l'isola è legata, soprattutto quella turistica. Cioè non vogliamo che l'isola ritorni ad essere questo non può essere nascosto. Ascolti, io le faccio una domanda che forse la farà un po' arrabbiare, ma io gliela faccio lo stesso, perché lei dice questa cosa ce la ricorderemo tutta la vita, eppure voi le vedevate passare le grandi navi, qualcuno di voi la salutavano dalle finestre, lo sapevate che passavano di lì. Vi è mai venuto in mente di dire no, forse di lì è meglio che non passiate? Ma no, perché questi passaggi, prima di tutto, ecco, c'è da chiarire questo, questi passaggi erano tutti fatti in sicurezza, cioè non si può proibire a una nave, anche perché non c'è nessuna disciplina che lo vieta, di avvicinarsi all'isola del Giglio per un discorso di saluto agli abitanti dell'isola, soprattutto quando te arrivi a una velocità che sei quasi fermo e ti tiene una distanza di sicurezza fra i 500 metri e il miglio, cioè quello che è successo... Cioè è un passaggio diverso dagli altri? Sì, questo qui secondo me è stato un passaggio diverso, perché molto probabilmente il comandante non ha saputo calcolare bene le distanze, però voglio dire... Vi è mai sorto il dubbio di dire ma forse qualcuno potrebbe poi un giorno sbagliare? Veramente, questo non c'è mai sorto, anche perché nel canale, diciamo, fra il Giglio e Santo Stefano e Porto Santo Stefano ogni giorno passano decine e decine di navi, come passa la nave passeggera, come passa la petroliera, cioè potrebbe essere lo stesso discorso. O si vieta appunto a tutti quanti di passare in questo canale, se no nel mare le navi ci sono sempre state, hanno sempre navigato. Ora dipende anche dalla perizia di chi queste navi le conduce. Questo mi sembra chiaro, insomma. Ve li aspettate i vostri clienti abituali, mettiamolo così, turisti abituali, quelli che da anni arrivano sull'isola quest'estate? O già avete avuto delle defezioni o telefonate preoccupate? Ma senta, io vorrei dire a questo punto, vorrei rassicurare tutti quanti, i nostri clienti abituali, anche quelli che vengono al Giglio, soprattutto diciamo da Roma, da Firenze, che sono le località più vicine e che hanno anche un posto barca qui all'interno del nostro porto, ci hanno tutti quanti rassicurato, ci hanno detto di tenere duro e di continuare, diciamo, a interessarsi per questa vicenda. È chiaro che qualcuno potrebbe anche telefonare per sentire come stanno le cose, però io spero, ecco, nonostante che il prefetto Gabrielli, che è una persona molto competente, si sia sbilanciato dicendo che ci vogliono dai 10 mesi all'anno, dai 7 ai 10 mesi, speriamo che questa situazione prima dell'estate venga risolta. Vedremo, naturalmente vi seguiremo, cercheremo di capire nel frattempo. Questa è la situazione, grazie per averci anche aggiornato su quello che sta succedendo questa mattina. Volevo dire un'ultima cosa, se era possibile, cioè vorrei dire appunto che il nostro turismo non è fatto di gente che viene qui a vedere il relitto e a scattare le foto. Cioè noi siamo molto, molto contrari a queste persone. Qualcheduno... E voi rivendicate un'anima diversa, naturalmente, certo, dell'isola del Giglio. Qualcheduno è stato anche un attimino un po' ripreso, no? Cioè portare i bambini, farsi la foto ricordo. Questo è un turismo che noi non accettiamo in nessuna maniera, anche perché dobbiamo rispettare ancora tutte quelle persone che ancora si trovano sul relitto. E poi deve essere anche una forma di rispetto dei soccorritori che ogni giorno appunto rischiano la vita per cercare di recuperare, speriamo, ancora qualcheduno vivo. E c'è da dire, il rispetto e la solidarietà che avete dimostrato, questo è senza dubbio stato sotto gli occhi di tutti. Grazie nel frattempo Alvaro Andolfi del Comitato della Popolazione Gigliese, grazie per essere stato con noi, buona grazie giornata. Grazie a voi per l'interessamento, grazie, buongiorno. Con un balzo anche questa mattina andiamo a Bruxelles, Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Adriana, ho solo un attimo di pazienza perché abbiamo il traffico e poi con te parliamo veramente del vertice europeo, che anche quello si è concluso a tarda sera e che è un passo davvero importante per l'Europa, tra poco. Strade in diretta. Ci sono code per un incidente sull'autostrada verso Milano tra l'innesto con la 14 Bologna-Borgo-Panigale e Modena-Sud. In entrata a Roma traffico intensissimo e molto rallentato, chiusa da ieri la metro B nella tratta tra Castel Pretorio e Monti Tiburtini, si è rotta una grossa conduttura idrica sotto la stazione di Piazza Bologna, i treni sono sostituiti da autobus. All'interno della fascia verde capitolina poi consueto stop ai veicoli più inquinanti dalle 7.30 alle 20.30. Salvo modifiche dell'ultima ora, in programma la chiusura della Salerno a Reggio Calabria alla 3 tra mezzogiorno e le 17, tra Bonapitacolo Padula e Lago Negro Nord nelle due direzioni. Noi torniamo tra mezz'ora. Prima edizione. Ed ecco, allora cominciamo col sentire come Mario Monti ha commentato la conclusione del vertice a Bruxelles. La conclusione è sulla linea che il Parlamento e il governo italiano auspicavano, e cioè nel pieno riconoscimento di tutti gli impegni che l'Italia come gli altri Stati membri hanno sottoscritto con i trattati, col patto di stabilità e da ultimo col six pack, non ci sono ulteriori appesantimenti o aggravi. C'è davvero di che essere soddisfatti, Adriana Cerretelli? Diciamo che io non sono estremamente trionfalista, nel senso che certamente diciamo si voleva la modifica del trattato e questo nuovo accordo per la progressiva integrazione delle politiche di bilancio, e c'è stato. E questo è, se si vuole, un risultato positivo, in quanto quando ci si pone un obiettivo e lo si raggiunge, questo per definizione è un risultato positivo. Però e al tempo stesso, diciamo, con i mercati che sempre più aggressivi nei confronti dei paesi dell'euro, avere una disciplina più strutturata e più coerente, anche questo è un fattore positivo. Però quello che io trovo meno positivo è il fatto, primo, che questo patto sia stato praticamente imposto dalla Germania al resto d'Europa, e questo è un segnale, secondo me, non troppo europeo, nel senso che si dirà, certo, ma l'accordo è arrivato, però per esempio l'accordo è arrivato a 25 e non a 26. E fuori c'è la Gran Bretagna, che non è poco. Fuori dalla Gran Bretagna lo si sapeva sin dall'inizio, ma ieri l'accordo è stato fatto a 25 e non a 26, nel senso che all'ultimo momento anche la Repubblica Ceca si è sfilata. La Repubblica Ceca ha detto di no, semplicemente perché non voleva accettare la possibilità, l'ipotesi di una svendita della propria sovranità sul bilancio nazionale. Allora, questo secondo me è il fatto, nel senso che c'è un'atmosfera brutta, c'è un'atmosfera di una Germania sempre più invadente nel resto d'Europa. Nel resto d'Europa. Tu questa mattina sul Sole 24 Ore scrivi l'elefante in cristalleria, riferendoti proprio alla Germania e alla Merkel. Sì, è un elefante in cristalleria e insomma c'è stato questo episodio che penso sia noto proprio alla vigilia del vertice, la Merkel ha fatto la proposta di commissariare la Grecia, nel senso di espropriarla tout court dei suoi poteri sovrani in materia di decisioni di bilancio, creando un commissario europeo. Questo ha naturalmente sollevato indignazione in Grecia e reazioni direi anche piuttosto pesanti sul piano psicologico, nel senso... Beh, è come se dicessero a noi la Germania adesso governerà l'Italia, insomma... È pesante la cosa, come dicevi tu. Non è andata così, però anche solo la provocazione pesa poi. La provocazione, secondo me, è addirittura peggio di una decisione in questo caso. E poi non è una provocazione, era una proposta. Questa, cioè, loro lo pensavano veramente. La tragedia che è accaduta. E diciamo, in Europa ieri c'è stato il vuoto, c'è stato veramente... c'è stata una reazione di disorientamento, tutti hanno parlato contro questa decisione, parlando di decisione offensiva, inaccettabile, di un attentato alla democrazia, perché persino le economie e i paesi con democrazie molto forti ed economie forti con AAA si sono ribellate a tutto questo. Adriana, secondo te questa stabilità da garantire ai mercati ci è costata forse un filo troppo da questo punto di vista? Io trovo che ci è costata troppo semplicemente perché la Germania è riuscita ad imporre questa disciplina fiscale senza dare nulla in cambio. Questa è la prima volta che accade, nel senso che in Europa c'è sempre, diciamo, la logica del compromesso, che è normale in una famiglia che ha, siamo in tanti, 17, con tante esigenze diverse, componenti. In questo caso invece la Germania ha imposto la disciplina ma non ha dato nulla in cambio, né in termini di crescita né in termini di solidarietà, perché è chiaro che si può dire sì, ma ieri c'è stata una tabella di marcia per la riprogrammazione sì, dei fondi strutturali, però a pagare saremmo solo noi, tu dici. Però al sodo non ci sono fondi nuovi, c'è stata l'idea di migliorare l'integrazione del mercato unico, certo, ma a tutto questo si lavorerà. Per cui dal punto di vista della crescita non c'è nulla, dal punto di vista poi della solidarietà finanziaria, che è la cosa più importante, cioè i fondi salva stati e le loro risorse, anche di questo se ne parlerà, ma l'idea tedesca è sostanzialmente quella di imbrigliare le economie degli stati e le politiche di spesa in modo tale da evitare in futuro esborsi proprio da parte loro, certo. E quindi è quello che voi le regole e noi non paghiamo, e l'amaro in bocca, come dicevi tu. Grazie davvero allora per averci fatto anche questo quadro del dietro le quinte, che dice molto. Grazie a davvero Adriana Cerretelli per essere stata con noi. Tra pochissimo GR24 torneremo a parleremo ancora delle decisioni prese a Bruxelles e di molte altro. Nel frattempo una buona giornata da Anna Migliorati, ci risentiamo tra pochissimo.